Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Giovedì scorso ci siamo occupati dei grandi consumi dovuti all'industria edilizia. Questa sera invece andiamo decisamente sul piccolo. Parleremo infatti di schermi LCD, ovvero degli schermi a cristalli liquidi, tanto diffusi nei dispositivi portatili come telefoni, PC, tablet e chi più ne ha più ne metta. Chiaramente dal risparmio energetico in questo settore non possiamo aspettarci chissà quale contributo alla riduzione del fabbisogno energetico del paese. Le implicazioni pratiche però non mancano, dato che gli schermi sono una delle componenti più energivore di questi dispositivi portatili. Una ricerca di grande interesse per quanto riguarda questo settore è stata da poco pubblicata sulla rivista Nature Materials, che è una delle riviste più prestigiose del mondo in questo campo. La ricerca è targata Made in Italy, arriva dall'Università Statale di Milano, che per l'occasione, va precisato, ha lavorato con le università giapponesi di Tokyo e di Kyoto. In linea con noi c'è uno dei protagonisti di questa ricerca, il professor Tommaso Bellini del Dipartimento di Chimica e Biochimica e Biotecnologie per la Medicina. Buonasera Bellini. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Certo che insomma questi nomi di dipartimento stanno diventando sempre più complicati. Adesso con la riforma può darsi che si semplificherà un po'. Sì, beh, per forza, non ci sono più i soldi per fare i cartelli. Allora, senta, Bellini, partiamo da questi cristalli liquidi. Noi tutti conosciamo gli schermi LCD, ma pochi, credo, sanno come funzionano. Proviamo a spiegarlo molto semplicemente. Ecco, gli schermi LCD si basano sull'esistenza di questi strani fluidi che si chiamano cristalli liquidi. I cristalli liquidi sono dei fluidi, quindi scorrono, sono dei liquidi un po' densi, un po' mielosi, diciamo, che sono fatti da molecole allungate piuttosto rigide. Tanti diciamo, bastoncini, diciamo. Esatto, è come se uno avesse una grande scatola di stuzzicadenti. Allora, se uno prende una scatola di stuzzicadenti e la scuote, tendenzialmente tendono a mettersi almeno in zone tutte orientate nella stessa direzione. Questo è quello che succede in questi liquidi, che sono molecole a forma di bacchetta che tendono a orientarsi tutti nella stessa direzione. Quindi è un liquido strano, perché una parte è un liquido ma l'altra parte le molecole sono tutte orientate. Infatti si chiama cristallo liquido perché ha un po', per questo, ha un po' di tutte e due. Pito per queste tutte e due, esatto. Questi fluidi sono speciali perché la direzione di tutte queste bacchette può essere spostata facilmente con un campo elettrico. E spostandosi hanno effetti ottici significativi, quindi nei display ogni pixel ha un piccolo campo elettrico, c'è una piccola gocciolina di questo liquido e quando il campo elettrico si accende queste molecole si spostano tutte da una direzione all'altra. Come tanti soldatini che si mettono sull'attenti o si girano a destra e a sinistra a comando. A comando, esatto, si girano di qui di là e così fanno passare o non passare la luce colorata secondo i colori, qui è retroilluminato lo schermo. Ecco, e voi invece avete scoperto una cosa interessante, diciamo, che consente di fare dei passi avanti. Di cosa si tratta? Dunque, si tratta di questo, che negli schermi normali si cerca di rispettare questo ordine, queste molecole, cioè tutti i soldatini si orientano tutti in un modo, tutti nell'altro. Noi abbiamo studiato una situazione un po' più contorta, ma che può avere delle ricadute interessanti, ovvero è un materiale misto in cui c'è un solido poroso fatto da dei micropori. Come una specie di spugna con dei buchini, però molto molto piccoli, per spiegarci. Esatto, una specie di intelaiatura, una specie di spugna, esatto, in cui dentro si mette il cristallo liquido. Allora il cristallo liquido che è dentro, e tutti questi soldatini che vogliono ordinarsi nella stessa direzione, deve però trovare un compromesso fra la sua tendenza a ordinarsi tutte nella stessa direzione e invece questa struttura che cerca di ordinarlo in tante direzioni diverse a seconda di come è fatto. Il risultato è che il cristallo liquido sviluppa una cosa che si chiamano difetti topologici. Allora, per spiegarci, per esempio, noi possiamo immaginare che vogliamo fare un muro con dei mattoni. Allora, fare un muro con i mattoni è facile farlo allineando tutti i mattoni nella stessa direzione. Ma se uno va in certe chiese medievali di mattoni e guarda delle cupole o le absidi, si accorge che tante volte effettivamente non è facile fare una struttura rotonda con delle cose allungate con i mattoni. E quello che si trova sono dei punti in cui i mattoni sono disposti a raggiera, oppure certo, a U. Insomma, ben noto arco, peraltro. Esatto, ben noto arco. E lo stesso fa il cristallo liquido, sviluppa delle linee lungo il quale è fortemente distorto. E voi le usate? Queste. Noi le usiamo, perché di solito queste sono considerate una seccatura, nessuno vuole i difetti nei display, ma invece abbiamo dimostrato che se uno costruisce le intelaiature, queste solide che ospitano il cristallo liquido, con delle geometrie particolari, queste linee diciamo vogliono stare solo in alcuni modi, quindi si sviluppano queste linee ma che seguono dei percorsi definiti. Allora, se uno controlla i percorsi definiti, succede questa cosa interessante che uno può fare. una spugna, una struttura con dentro il cristallo liquido, e le linee possono disporsi per esempio in 3 o 4 modi diversi. D'accordo. Allora, questo vuol dire che se uno trova un modo, ancora con campi elettrici, di spostarli da una posizione all'altra, queste sono posizioni stabili, quindi stabili. Possono stare in un modo per sempre o nell'altro modo per sempre. Ecco, la differenza qui, è importante dirlo, è che negli schermi a cristalli liquidi normali bisogna invece continuare a tenere acceso questo campo elettrico che consuma energia. Voi invece riuscite a dargli una posizione stabile e a un certo punto gli cambiate la conformazione, e poi a quel punto non dovete più consumare energia per tenerli così, vero? Esattamente. Okay. Cioè, e qual è l'applicazione quindi? Esatto, sì, questa è una soluzione che è una soluzione lenta dal punto di vista dei display normali, quindi non va bene per vedere un film, ma può avere una grandissima ricaduta nei display, quelli diciamo tipo gli e-book, quelli display che si portatili per leggere un libro in luce ambiente e in cui non c'è bisogno di un grande refresh, c'è bisogno invece che uno va in spiaggia, si legge un libro in luce ambiente per tutto un pomeriggio senza che si scarichi la batteria. Per esempio riesco a leggere sotto il sole, no? Cosa che è impossibile con un LCD retroilluminato, perché il sole è molto più luminoso e cancella sostanzialmente l'immagine. Esatto, infatti per questo tipo di applicazioni quello che si guarda come paradigma è la carta stampata. A che punto siete dello sviluppo pratico, diciamo? Nell'articolo abbiamo dimostrato il concetto con delle grosse simulazioni al computer. Ora siamo passati proprio alla fase della realizzazione pratica in una collaborazione col Politecnico di Milano, che è capace di creare queste microstrutture. Stiamo studiando quali geometrie effettivamente siano in pratica ottenibili e quindi quali dimostratori possono essere costruiti. Grazie Tommaso Bellini, allora in bocca al lupo per questo lavoro. Grazie a lei. Per stasera ci fermiamo qui, l'appuntamento è per domani, buona serata.